Sura novantesima. Al-Balad. La contrada. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Lo giuro per questa contrada, e tu sei un abitante di questa contrada, e per chi genera e per chi è generato. In verità abbiamo creato l'uomo perché combatta. Crede forse che nessuno possa prevalere su di lui? Dice, ho dilapidato una quantità di beni. Crede forse che nessuno lo abbia visto? Non gli abbiamo dato due occhi, una lingua e due labbra? Non gli abbiamo indicato le due vie? Segua dunque la via ascendente. E chi ti farà comprendere cos'è la via ascendente? È riscattare uno schiavo, o nutrire in un giorno di carestia un parente orfano, o un povero prostrato dalla miseria, ed essere tra coloro che credono e vicendevolmente si invitano alla costanza e vicendevolmente si invitano alla misericordia. Costoro sono i compagni della destra, mentre coloro che non credono nei nostri segni sono i compagni della sinistra. Il fuoco si chiuderà su di loro.